24 di Giovanni Minoli, il faccia a faccia. Stefania Giannini, lucchese sposata con due figli, rettore dell'Università per Stranieri di Perugia dal 2004 al 2012, dal 2013 senatore eletta nelle liste di Scelta Civica, dal novembre del 2013 è segretario generale del partito, dal febbraio 2013 è ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del governo Renzi. Ha un progetto per fare in Italia la buona scuola, ma intanto, mentre in Germania l'università è ormai gratis per tutti, i finanziamenti aumentano del 20%, in Italia siamo a meno 14% e nella scuola inizia la protesta. Tutti in piedi sui banchi per chiedere partecipazioni nelle scelte in attesa della manifestazione del 10 ottobre. Ecco, ministro Giannini, ma la consultazione di giovani e famiglie sulla buona scuola è fallita? È in corso e mi pare che stia andando molto bene. Quanti sono, hanno risposto? 310.000 contatti sul sito, quindi vuol dire che 300.000 italiani hanno guardato per più di 5 minuti il progetto. Senta, si sono informati, e 30.000 hanno cominciato a rispondere alle domande. Senta, ma è possibile che solo in Italia ogni anno si comincia con i giovani che protestano per la scuola che non va? Avranno ragione su qualcosa? Ma l'ha detto lei, meno 14% significa che sono almeno 10 anni in cui si parla di scuola, di istruzione, di università solo per tagliare e sapere dove tagliare. È così anche per lei, mi pare? No, non credo. Ci sarà 1 miliardo per la scuola nella legge di stabilità e questa è una novità assoluta, direi rivoluzionaria. Senta, ministro Giannini, lei al CERN giorni fa ha celebrato l'eccellenza della ricerca, anche italiana, nel suo programma di 12 punti, però... Dove si vede con chiarezza che avete deciso anche voi di favorire l'eccellenza? Mi dice un punto dove è chiarissimo che non si può non vederlo? I 12 punti riguardano la scuola, sì, e la ricerca è un capitolo di cui parleremo tra brevissimo. Ma l'eccellenza nella scuola italiana significa avere tutti gli insegnanti che servono, formarli ed avere competenze aggiornate e qualificate. Ecco, però assumere, come avete deciso di fare, 150.000 precari della scuola, beh, non è detto che vada nella linea di favorire l'eccellenza. Sa, ogni anno, il 1° settembre, ci sono 50.000 scuole, 50.000 cattedre che hanno un avvicendamento e un'instabilità annunciata di insegnanti, quindi... porre una riga a questa piaga tutta italiana e partire col piede giusto. Vabbè, quindi lì l'eccellenza non c'entra ancora, perché nell'insegnamento la selezione è la premessa dell'eccellenza. Come si fa a farla su questi 150.000 che si prendono per tirare la riga? Se fosse un piano assunzionale basta, avrebbe ragione lei, non è quello. Noi assumiamo tutti gli insegnanti di cui abbiamo bisogno per l'autonomia scolastica, perché le scuole in autonomia veramente possano quindi fare il loro... Quindi l'eccellenza verrà. No, diciamo, viene nello stesso momento, perché avviamo immediatamente quello che solo in Italia manca, cioè un piano di formazione costante, obbligatorio per tutti gli insegnanti. Senta, quelli che stiamo assumendo e quelli che sono a scuola. Vabbè, adesso. E quelli che state assumendo si vedrà... sono, ma anche gli altri devono essere formati. Naturalmente, magari già ci sono. Senta, ma più che la priorità al diritto del lavoro dei precari, che è naturalmente un diritto, la buona scuola non dovrebbe dare agli studenti il diritto appunto di avere insegnanti capaci? Quello è il punto centrale. Siamo partiti di lì, perché quello che ci interessa è che la scuola, con tutti gli insegnanti ben formati e qualificati che vogliamo per il nostro paese, dia le competenze giuste, quelle che non ancora i nostri studenti hanno. Senta, per esempio una scuola che dia una competenza linguistica accettabile, naturalmente il l'inglese, passaporto, sì, l'inglese o altre lingue. Beh, da quando? Da subito. Dal 1° settembre, cioè 2015. No, da subito, ma da quando? Dalla scuola elementare. Dalla prima elementare. C'è poco, ma quelle due orette così? Le lingue oppure... come lo sport, se si impara da piccoli si sanno, se non si imparano dopo da piccoli si è dilettanti tutta diventa, la vita. Diventa no, complicato, sì. Senta, non è che queste dei 150.000 assunzioni è una mossa elettorale? Ma non vedo elezioni che facciano pensare a questo, perché il piano della buona scuola è partito dalla nostra testa, dal nostro progetto educativo, ed è partito per fare quello che serve all'Italia, insomma, cioè rimettere come... l'istruzione al centro. Non è come gli 80 euro, insomma. Non sono neanche gli 80 euro una mossa elettorale, sono una mezzo di ridistribuzione della ricchezza. Le elezioni europee si sono vinte anche per quello. Senta, ministro Giannini, preparando l'intervista... Io non le ho vinte, no, vabbè. Facevo parte del governo. Senta, beh, certo, è vero. Anzi, diciamo che non è andato proprio benissimo per scelta civica. Senta, ministro Giannini, preparando l'intervista, nei 12 punti della sua buona scuola, ho visto poco la ricerca, forse ho letto male. No, ha letto bene, perché è un capitolo che dobbiamo ancora aprire. Della ricerca ci stiamo occupando, immaginando come rendere più competitive tutte quelle eccellenze che nel nostro paese già esistono. Ma è vero o no che per trovare i soldi per assumere quei precari sono previsti tagli per 400 milioni a università e ricerca? Falso. Falso. E dove si trovano i soldi? Si trovano nei risparmi che anche il nostro ministero ha pianificato, e che vuol dire costi intermedi ridotti in tutti i settori, anche quello dell'università e della ricerca. Ecco, insomma, ma non solo lì, perché poi sarà un risparmio collettivo che poi riassegna le risorse. Certo, nell'amministrazione in generale. Tante buone idee nel suo progetto di buona scuola, questo è dubbio, è fuori dubbio, ma però chi ha fatto i conti dice che l'inserimento in pianta stabile dei precari, di questi che poi bisognerà formare, che abbiamo tirato la linea per ricominciare, ecco, questo inserimento costerà 3 miliardi di euro, di cui 1 miliardo nel 2015, è così? Sono conti che avevamo fatto noi nel rapporto buona scuola, ci sono numeri molto precisi, perché quindi non è frutto di un'improvvisazione, è verissimo. E gliel'ha detto a Padoan? Ma non servono solo per quello. A Padoan gliel'ha detto? Certo. No? Lui è molto d'accordo, certo, no? Certo. Sì, eh? È d'accordo, gli dai soldi con piacere. È d'accordo, perché Padoan, essendo un uomo anche di istituzioni internazionali, sa benissimo che o l'Europa riparte dagli investimenti in ricerca e istruzione, oppure è difficile che prosegua il suo cammino. Abbiamo visto il rapporto con la Germania, abbastanza drammatico. Senta, ministro Giannini, a un certo punto, ad agosto, il presidente Renzi ha avvocato a sé l'intero dossier della scuola. Si è sentita delegittimata? No, sono il primo ministro che trova un presidente del Consiglio che fa suo, e ne sono orgogliosa e ne sono fiera, credo che tutti dovremmo esserlo, un capitolo che finora è stato rincorso dal ministro di turno contro il resto del governo. Quindi i rapporti con Renzi sono buoni? È il nostro allenatore, è una squadra che deve vincere. Ma io forse allenatore... non appartengo allo squadrone, appartengo a una squadra di provincia, ma non per questo non sono meno utile. Senta, ma è stata infastidita lei dal gossip delle sue foto di quest'estate su chi? No, avere un ruolo pubblico significa anche essere qualche volta oggetto di furto di... Non le sono dispiaciute? No, non particolarmente, fa parte del gioco. Senta, ministro Giannini, lei è rimasta ministro dopo che il partito suo, a cui apparteneva, da cui si è dimessa come segretario, è passato dall'8% al 0,8-0,7, non so. Che cosa ha sbagliato Monti? Ma credo che più che gli sbagli di Monti si siano intrecciati due fattori. Il primo, il progetto politico per cui siamo andati in Parlamento si è esaurito, perché il nostro progetto era un progetto radicalmente riformista. È arrivata un leader e una forza politica che sta facendo quello che Scelta Civica pensava di fare, quindi noi non possiamo che quindi collaborare. Quindi siete assorbiti, siamo assorbiti idealmente, politicamente. E dall'altro punto di vista, insomma, è una forza che è nata come lista elettorale con componenti eterogenee. Per fare un partito compatto e omogeneo ci vogliono anni e non mesi. Senta, lo sente ancora a Monte? Sì, è senatore a vita nel mio gruppo. Nel no, ma lo gruppo. Sente, vuol dire, ci avete un rapporto? Sì, sì, abbiamo un ottimo rapporto. È un po' depresso? Non mi pare, ha voltato pagina. Ma si è accorto dell'errore che ha fatto o no? Questo bisogna chiederlo a lui. Ah, non lo so, non ne parlate. No, non parliamo degli errori, parliamo delle soluzioni. Beh, senza parlare degli errori è difficile trovare le soluzioni. Senta, ministro Giannini, anche col ministro Madia lei ha avuto a che dire, vi siete chiarite? No, questa è una costruzione giornalistica. Il ministro Madia c'è un eccellente rapporto, forse allude... No, perché hanno sempre colpa, alla questione dei pensionamenti, sì, esatto, e dei giovani contro i vecchi. Io non appartengo al partito dei vecchi contro quello dei giovani, insomma, da signora sarebbe anche imbarazzante riconoscerlo, è falso. Diciamo che io credo, come penso che anche Marianna Madia creda, che competenza ed esperienza siano fondamentali per far sì che le giovani generazioni possano andare avanti. Senta, il presidente Renzi ha a cuore la scuola, lo dice in ogni occasione, è come diceva anche lei, addirittura avvoca a sé in qualche modo il dossier. Che cosa significa però in concreto? Ma sa, significa partire dall'istruzione, fare un piano di edilizia scolastica che è stato il primo punto concreto di questo governo, lo ricordo, in un paese che aveva e continua ad avere, finché non sarà ultimato il 40% degli edifici non completamente a norma, e significa rimettere l'istruzione al centro. Sì, io lo sottolineo perché bisogna ricordarci che è una novità assoluta da 20 anni a questa parte. Sì, però lei parla di cantieri, allora le dico che sui 7.750 previsti sono solo 1.754 quelli aperti. Una falsa partenza o perché ci vuol tempo? No, mi permetto di correggere il dato, sono 1.000, quello che ha detto lei, 1.100 e qualcosa, i cantieri conclusi, cioè quelli che hanno iniziato e finito i lavori. Entro la fine dell'anno sono in corso di completamento i lavori per altri 4.500. Teniamo conto che siamo partiti a giugno. Mi sembra. Quindi arriveremo alla metà del 7.750 più o meno, se ho capito bene. No, arriveremo entro la fine dell'anno al completamento dei lavori delle scuole belle, perché queste sono le piccole manutenzioni. Certo. E poi tutti i cantieri che fanno invece ristrutturazioni più pesanti. Quindi mi faccio capire, entro l'anno saranno tutti. Scuole belle, i 7.750 saranno fatti. Saranno fatti. Va bene, una notizia. Non è poco, anche no, se sono, è una notizia, se sono lavori di piccola manutenzione. No, è una notizia, la verificheremo, inviteremo qua. Sì, volentieri. Senta, intanto Renzi aveva iniziato a visitare una scuola la settimana per dimostrare appunto anche in concreto questa sua attenzione. Continua a farlo? Ma lo sta facendo, non so con quale regolarità, perché fa il Presidente del Consiglio. Quindi no, ma l'ha detto lui che andava, andato. Ogni... Ma sa, ci sono gesti che hanno anche un valore simbolico. Io l'ho interpretato basta così. Basta uno per tutti. Diciamo che forse tocca a me fare questo. Con che criterio si scelgono queste scuole? Ma al centro, con la volontà di vedere soprattutto che cosa succede nelle classi e qual è... cioè di toccare con mano, di farsi sentire viva voce dagli studenti e di ascoltarli, soprattutto di ascoltare. Senta, ma per trovare i soldi per fare gli investimenti non si potrebbe fare come in Francia, dove si sfonda, hanno deciso di sfondare il tetto del 3% per investimenti nella scuola e nella ricerca? Ma lo sfondamento dei francesi non è esattamente finalizzato, non solo ma anche naturalmente diciamo che un paese che ha un indebitamento pubblico come il nostro deve anche tenere dritta la barra sui conti. Detto questo, ma lei è d'accordo con i francesi o no? Ma io credo che sia un dibattito che deve essere aperto in Europa. Tant'è che nel semestre noi stiamo proponendo un Maastricht della ricerca, recuperando una bella proposta che fu fatta nel Parlamento europeo uscente. Quindi mettere il tema della ricerca al centro dell'agenda vuol dire dare anche una corsia preferenziale per quel tipo di investimenti. Ma lei pensa che la battaglia in Europa è una battaglia persa oppure è una battaglia che si può fare? Insomma, la Merkel e Renzi stanno per salire sul ring oppure no? Ma guardi, la battaglia in Europa, con tutto il rispetto, non è quella della Merkel, di Renzi e dei leader politici soltanto, è quella di tutti i decine di milioni di ragazzi che non la vedono come me, come lei, e nemmeno come la Merkel e come il presidente Renzi, ma sono convinti che l'Europa è il loro spazio. Quindi ma quale Europa? Quale Europa? Perché questa è la discussione, è quella. L'Europa dell'Erasmus, l'Europa della mobilità, l'Europa dei voli low cost, l'Europa in cui nasci a Berlino, ti innamori a Lovanio, certo, e lavori a Parigi. Questa è l'Europa. Questa non è l'Europa che c'è. No, è un'Europa che va ancora costruita, dobbiamo essere molto onesti. Ecco. Allora lì il vertice tra questo, Renzi, dicevo, e la Merkel è cruciale, ovviamente. Appunto. Generazione a confronto anche su quello, mi sembra. Senta, parlando di università, l'ex ministro Gelmini, quella che l'ha preceduta, certo, nel governo Berlusconi. Tre ministri fanno perché è andata in fretta. Forse troppo. Gelmini ha detto l'università è un sacco bucato dove non vale la pena di mettere altre risorse. Ha torto? No, è un sacco che è stato per molto tempo mezzo vuoto e mezzo pieno, non solo di risorse ma anche del coraggio di distinguere tra il diritto allo studio e l'eccellenza. Mi spiego, cioè noi abbiamo una percentuale veramente molto bassa di laureati, siamo al 18%, molto bassa, dovremmo arrivare al 40% nel 2020, non ce la farà nessuno, ma noi partiamo veramente da una posizione arretrata, quindi questa è una priorità. Al tempo stesso dobbiamo anche far sì che le università che hanno un profilo d'eccellenza possano correre senza vincoli e possano correre liberamente per avere una competizione internazionale adeguata. Scuole belle, non è vero, chiamate i sindaci, ci consigliano con un SMS. I sindaci credo che siano consapevoli che tutti quelli che hanno fatto la loro richiesta sono stati inseriti in una graduatoria. Per riqualificare l'insegnamento, restiamo qua, l'insegnamento universitario, sì. Si faranno assunzioni a chiamata adesso? No, intanto abbiamo fatto un piccolo cambiamento che produce una grande rivoluzione, cioè le abilitazioni saranno continue, si potrà essere valutati tutto l'anno e non con concorsi a singhiozzo. Poi ci sarà la chiamata. Poi le università dovranno scegliere. Ma per sono meglio le chiamate dell'abilitazione nazionale, secondo lei? No, sono due cose che si devono abbinare. L'abilitazione ti dice se puoi fare il chirurgo e aprire la pancia di qualcuno con la competenza. Quell'altro dice se voglio che dice me in quale ospedale. Altro, Esattamente. Ma concorsi mai più o ancora concorsi? No, concorso è un principio costituzionale nel nostro paese e quindi ti dà la patente. Attenzione, ti dà la patente. Poi la macchina va scelta e va scelta rapidamente. E bisogna vedere adeguata. Quale sai guidare. Sì. Ecco, intanto nelle prime 150 università del mondo non c'è nessuna università italiana, ci dobbiamo rassegnare? Gliel'ho detto prima, troppi vincoli, troppe camicie di forza, bisogna avere il coraggio di toglierle. Senta, nelle primarie, nella sua buona scuola, lei vuole più musica e sport, nelle secondarie più storia dell'arte, è la strada giusta questa? Sono le competenze che ci qualificano nel mondo e devo dire, guardandoci intorno, non sono così robuste né nei giovani né nei meno giovani, quindi ripartiamo anche da lì. L'inglese l'ha detto, ricominciamo dalla prima elementare, no? Sì, assolutamente. Ma in un paese dove nei banchi di scuola ci sono 850.000 alunni di 190 nazionalità diverse, il problema primario non dovrebbe essere quello dell'integrazione o comunque un problema fondamentale? È un tema, non è un problema, perché la buona scuola pensa anche e soprattutto alla formazione degli insegnanti per fare anche questo. Cioè... Ecco, ma per esempio, le faccio un esempio, a Padova il primo giorno di scuola, in una scuola c'erano 65 figli di immigrati e un solo italiano in quella scuola. Sì, è un caso paradossale naturalmente, ma però è un segno di una cosa che va affrontata. Beh, sono l'8% in tutta Italia i bambini stranieri, non sempre hanno una competenza dell'italiano perfetta, quindi si deve partire anche da lì. Ma è lo stesso, è l'altra faccia della medaglia dell'insegnamento linguistico di una lingua straniera. Ci vogliono obiettivi chiari, competenze per chi insegna e la volontà di avere una scuola quindi moderna. Lei dice scuole belle, scuole sicure, scuole nuove. Non sono solo hashtag, ma anche arrosto, è così? Beh, ci stiamo lavorando da 8 mesi, mi pare che 140 pagine di pensiero articolato con tanto di proposte dettagliate e soldi contati, come ha detto lei, siano la prova che si sta lavorando sul tema. 750.000 neoassunti, di cui abbiamo parlato prima, potrebbero già sperimentare il contratto unico a tutela crescente di cui si sta parlando e domani immagino se ne parlerà ancora di più nell'incontro fra il governo e i sindacati? Ma soprattutto potranno e potrebbero sperimentare il contratto che prevediamo per gli insegnanti e che fa scatti stipendiali e crescita in carriera per merito e non per anzianità. Ecco, lavorate con i sindacati per agire sugli scatti di anzianità e rendere meno onerosa per lo Stato la ricostruzione? La consultazione riguarda tutti, online e offline, i sindacati li incontrerò, mi sembra, la settimana prossima o quella successiva. Ecco, ma a proposito dei sindacati che incontrerà, lei cosa si aspetta dall'incontro di domani tra Renzi e l'organizzazione sindacale? Uscirà qualcosa oppure no? Oppure è un bluff? Ma io mi aspetto che ci sia una consapevolezza pari, che si sta giocando tutti dalla stessa metà del campo per una partita che va assolutamente vinta. Allora, per essere concreti, il presidente di Confindustria Squinzi ieri ha detto che il TFR in busta paga è una follia per l'industria italiana. Renzi insiste, lei da che parte sta? La proposta che è venuta fuori mi piace molto perché lascia libero il lavoratore di scegliere e non svuota le casse delle imprese. Quindi ha ragione Renzi, torto Squinzi? Ma io dico alla cittadina, se mi fanno scegliere sono felice se il TFR me lo posso giocare quindi, subito. Sì. A me piace. Va bene, senta, ma l'articolo 18 è un residuato ideologico e basta? No, è un punto già superato nei fatti, ma che va anche accantonato in nome di una politica del lavoro flessibile e sicura, quella a cui si sta lavorando, e credo che sarà una battaglia vinta. Senta, studio e lavoro restano due mondi che non comunicano abbastanza. In Italia i giovani che affiancano formazione e occupazione sono il 3,7%. Anche meno. Vabbè, è un dato. In Germania il 22%. Ecco, come si fa a fare incontrare? In Germania hanno cominciato 30 anni fa con le scuole professionali, le Fachhochschule. Noi rinforziamo adesso questo capitolo. Cioè, ma le scuole professionali da noi le rinforziamo? Sa come si chiama un capitolo della nostra scuola? Fondata sul lavoro. Fondata sul lavoro, che va imparato. Cioè, quindi, alternanza scuola-lavoro, 200 ore all'anno per tutti gli studenti del triennio dell'istituto. Ma perché da 18 anni e non da 14 come in Germania? No, triennio, quindi 16-18. Vabbè, metà strada. Ci vogliono 100 milioni per fare questo, quindi è previsto anche uno stanziamento non trascurabile. Senta, uno studio della Commissione Europea dice che il 40% della disoccupazione giovanile è imputabile proprio al non rapporto, al mancato rapporto tra scuola e lavoro, è vero? Una parte della disoccupazione giovanile dipende da questo, e quindi è assolutamente fondamentale far provare prima agli studenti cosa significa lavorare e dargli le competenze giuste. Senta, gli studenti chiedono di abolire il numero chiuso per l'ingresso all'università, che coinvolge oramai metà dei corsi universitari. Lo farà? Lo abolirà? Io abolirò il test di ingresso a medicina, che non significa abolire il numero chiuso, perché la programmazione però, è importante. Però abolirà il test. Beh, la mia proposta è questa, poi ci vuole un consenso politico che va costruito dal prossimo anno accademico. La proposta che farò è questa. Ecco, ma il modello francese del selezionare dopo il primo anno è quello a è cui un si riferimento rifà, secondo me molto buono, naturalmente va calato nel contesto italiano. Significa valutare gli studenti migliori per quella facoltà e non affidarsi a 60 domande a risposta multipla. Ecco, ma riformare la maturità vorrà dire solo commissioni interne? No, nessuno ha in mente di riformarla. Ma perché lo fate? Per risparmiare? No, per adeguare la commissione, quindi i valutatori, alla prova. La prova di maturità che cos'è? Promuove il 98% degli studenti e sintetizza il percorso di studi. È meglio che la faccia chi conosce gli studenti o è meglio che la faccia una commissione esterna che costa 140 milioni per inciso? E quindi anche per risparmiare, diciamo che non è sbagliato tener conto anche di questo. Ma io non dico che è giusto o sbagliato, lo chiedo solo perché. Senta, c'è chi dice che nel vostro documento non c'è la risposta alla domanda fondamentale di questi tempi di crisi, se la faceva già Moravia in una famosa intervista. E la domanda è questa: a che cosa serve la scuola? Sì, siamo il paese di Don Milani, di Malaguzzi, di Don Bosco e della Montessori. Non darei una risposta in un rapporto che serve a costruire un progetto educativo nuovo. La scuola serve a formare persone e quindi per formare persone ci vogliono competenze antiche, competenze nuove e soprattutto un progetto che sia educativo e non solo di istruzione e di contenuti scolastici. Senta, le faccio un'ultima domanda. In realtà, che cosa deve certamente saper fare un giovane italiano nel XXI secolo in un mondo che fa del sapere, della conoscenza, il motore della competizione? Deve capirlo questo mondo, e per capirlo servono quelle cose che abbiamo detto. Servono le lingue, perché il mondo non finisce nella tua città e nel tuo paese. Servono il pensiero computazionale, perché ormai le fonti di dati sono molteplici. Insomma, serve una competenza aggiornata e soprattutto serve, come ho detto prima, poter diventare persone che hanno uno sguardo e un punto di vista originale sul mondo. La scuola deve fare questo. Le faccio un'ultimissima domanda personale: ma lei è ancora di Scelta Civica? Certo, siamo entrati in Parlamento per questo e finché dura questa legislatura dobbiamo fare esattamente quello che stiamo facendo. Un sostegno leale e convinto PD? Al governo. La prossima PD? Gliel'ho già detto, squadra di provincia, quello è uno squadrone. Mix 24. Mario, che titolo faresti l'intervista a Giannini? C'è un vuoto. nell'intervista. Cioè? Sì, ti butta a fuoco. Ah sì, perché quando ascoltavamo l'elenco dei predecessori, dei riferimenti, insomma, tutti quei nomi che un poco fanno spaventare, cioè il Pantheon dei buoni, sì, dei giusti, la scuola in Italia, Giovanni Gentile, che te ne facciamo di tutti, come si chiamavano quegli altri? Vabbè, ma lei ha detto gli ultimi quattro, su. Giovanni Gentile, come fa? Bene, la scuola è eccellenza, però un titolo me l'ha venuto. Il tema è un problema. Tutto hashtag e niente arrosto. Ah, questo è carino. Perfetto. La canzone. La ballo senza sballo e canto senza scatto. Chi sogno contenta e la testa all'aria va. La ballo senza sballo e canto senza scatto. Ogni giorno scuro un altro giorno se ne va. Per il lunedì mi pare che va bene. È perfetta, anche perché io mi sono mosso due ore prima dell'alba. E non ho preso la metropolitana, ma mi sono incamminato. Era chiusa. Non lo so, non mi sono posto il problema. Però camminando, sentendo questo ritmo che comincia a svegliare a maggior ragione, senza necessità di luce, proprio perché balla senza sballo, ho incontrato una meraviglia che credo sia proprio il gioiello dell'alba, il mercato dei fiori. E cosa c'è di più bello di vedere nei fiori quel poter essere finalmente colore, profumo, fragranza, nel frattempo che poi ti accorgi e ti rendi conto che nel ballo senza sballo c'è sempre una donna che i fiori li sa portare a tracolla. Ci abbiamo una pentola piena di bolle, Mario. Abbastanza, sì. Che ci racconti? Senti qua. Non è detto che perché sono qui devo per forza comprare. Ho trovato gli stivali di Pucci! Oh, mi dispiace tanto. Io ho visto che li lasciava sul banco. Dammi e non ti succederà niente. Sì, allora! Balla quegli stivali! Allora, c'è un acquisto importante, perché il fondo sovrano di Singapore ha comprato il centro commerciale Roma Est. E uno dice, vabbè, cosa vuoi che sia? No, è una cosa grossa. Parliamo di un gioiellino del commercio da 400 milioni di euro. Il fondo già aveva il 50%, c'era l'altro detentore, la quota azionaria, che vendeva e ha acquistato. Non hanno dato il dettaglio del cosiddetto deal, però insomma parliamo di una cosa molto grossa. Tra l'altro ci fa anche ricordare il valore della nostra economia e del nostro mercato interno. Nel frattempo, proprio di mercato interno, di commercio, di domande e così via, cerchiamo di capire, o meglio di seguire più che di capire, perché capirlo è molto difficile secondo me in questo momento, che cosa vogliono fare con il trattamento di fine rapporto. Il TFR in busta paga, insomma. Le associazioni degli imprenditori, piccole e grandi, hanno detto che sono contrarie. Sono contrarie, assolutamente. Il governo è in una via mediana, forse dice su richiesta del lavoratore si potrà fare, ma io ho qualche dubbio. Ma chi lo paga, le aziende in questo caso? Certo. Non mi pare che siano d'accordo. Non sono molto d'accordo. In ogni caso, secondo me, sai che cosa c'è nell'aria, Giovanni? Un po' di confusione. Stupendo. Grande Battisti, ci manca tantissimo. Vuoi dare i numeri? Cosa vuoi dammi fare? Dammi una bolla. Voglio una bolla. Ti vedevo là. Cosa pensa di voi il mondo degli affari? Pensa che 100 anni fa qui vivevate nelle tende, nel deserto, tagliandovi la testa tra di voi, e che tra 100 anni sarete di nuovo così. Quindi sì, a nome della mia compagnia accetto i tuoi soldi. Questo era un brano di Siriana, ahimè, terreno di scontro della contemporaneità. Vi racconto due storie. La prima è quella di questo agente francese, una storia bellissima dal punto di vista giornalistico, molto inquietante dal punto di vista strategico e militare, perché stanno dando la caccia a un agente francese che era passato al CAI, adesso sta con ISIS di fatto, è sfuggito a un attacco missilistico. 47 cruise hanno sparato e non l'hanno mai beccato. D'altronde pare che sia un esperto di esplosivi, quindi probabilmente sa anche come scappare un po'. E caccia aperta perché questo signore ha un team di 5 specialisti in attentati. Ripeto, era uno dei servizi segreti francesi. L'altra storia dal fronte siriano è questa storia della ragazza, mamma di due figli, che si è fatta esplodere. Sì. Primo attacco suicida tra le file dei curdi che cercano fieramente di resistere all'assalto di Kobane, che è la terza città. Fino a farsi saltare in aria. Guardate, questa storia è terribile. Quello che sta succedendo in questo momento in Siria chiama tutto l'Occidente a una risposta, e aggiungo non solo l'Occidente. Io mi attenderei un coinvolgimento dell'Iran molto più forte. Penso che è come nel passato, il nemico di ieri deve diventare l'amico di oggi in alcuni casi. Certo. C'è Pietrangelo. Vorrei dire che lo schieramento non è tanto Oriente contro Occidente. Sì, sono d'accordo. Il vero schieramento è tra il nichilismo e la difesa della civiltà. Assolutamente, sono convinto anch'io. Coloro i quali mascherano attraverso l'azione terroristica i principi e i fondamenti del sacro sono doppiamente nichilisti. Sì. Sara, quota rosa. Forse puoi abbandonarti di domenica. Sono cambiamenti solo se spaventano. È vero, capita anche a voi che la domenica sia tempo per pensare ai cambiamenti, a tutte quelle rivoluzioni che esplodono nel nostro quotidiano? Per me la domenica è il tempo dei sentimenti, come dicono i Subsonica. Ieri passeggiavo per l'appunto con il mio adorato cane, Rebecca, e ho incrociato due papà con i loro due figli maschi che avranno avuto, non più di 3 anni. E un papà dice al bambino: fai le coccole a Pietro. Pietro era l'altro bambino. Poi il papà insiste ancora, no? Però sempre con dolcezza: fai le coccole a Pietro. E dopo qualche secondo di questo tempo sospeso nella mente del bambino, eccolo che abbraccia Pietro e lo avvolge con un sorriso proprio gioioso, dolce. Ecco, per me questa scena è stata meravigliosa. Un papà che incoraggia suo figlio maschio a tradurre in concreto l'affetto, ad andare incontro agli altri. Io direi non male come insegnamento domenicale. Però Mario, per non squagliarci come un cioccolatino sotto il sole, ascoltiamo tutto... Rino Gaetano. Sono sotto il tavolo, non ti dico altro. Cantare i consigli dei papà. Il corredo ce l'hai già pronto, puoi girare il mondo a piedo il tram, ruba, picchia, usa il pugnale. Pietrangelo Salamino. Punta il sole, canta il gallo, la presidenta monta a cavallo. No, in verità Laura Boldrini non monta, giammai, giammai, ma ascoltate. Camminerò, camminerò sulla tua strada. Cammina, cammina! Su Twitter ha postato una fotografia che l'ha flagellata meritatamente, giustamente, ci mancava altro che non fosse così. È stata funestata dagli sfottò, perché lei, di persona personalmente, come avrebbe detto Catarella, si fa fotografare mentre sale a piedi alla faccia dell'ascensore e dice: come ogni giorno io a Montecitorio senza ascensore, e oggi anche il per promuovere lo sport e l'attività motoria. Cose turche. Laura Cesaretti ieri sul giornale, poi grande Laura, riferiva anche di una, insomma, di aneddoti deliziosi che riguardano la presidenta, perché spedisce i commessi di Montecitorio ad andare a ritirare dei tailleur raffinatissimi, meravigliosi, da Armani, però vengono chiusi in buste no logo. Poi storie meravigliose, per esempio la scorta che fu considerata valida per personalità quali Iotti, Napolitano, Casini, Violante, non è stata considerata sufficientemente affidabile per lei. Però insomma, lei lavora, cammina, cammina, lavora. Oggi una deliziosa intervista sul Corriere della Sera la riscatta agli occhi dell'opinione pubblica. E perché dice che non bisogna togliere il finanziamento pubblico ai partiti, altrimenti i padroni, insomma, gli imprenditori, quelle là, politica, si presentano al cospetto dei partiti e dominano. Allora, siccome è troppo brava, è troppo verewelle, Giovanni, ascolta che cosa dedico alla presidenta che non monta a cavallo ma cammina a piedi. È veramente very well questa signora. 800 24 00 24, non gli è simpaticissima. Numero sms 349 238 666. Cos'è che è? No, non ti è simpaticissima. Ah, pensavo che fosse simpaticissima. No, lei no, ah, ho pensato di aver capito da questa bolla, da, no, questa, è da questo salamino. Mix 24 salamino. Sarà pure un eroe del fact checking, si dice così? Yeah. Sì, fact checking, dai. Sì, però è un fatto che Luigi De Maio, Luigi Di Maio, vicepresidente della presidenta, e insomma uno che si è portato avanti, perché già tu che sei un osservatore dei fatti internazionali, io saprai che so niente, saprai che da giorno 3 settembre non si vede in Corea del Nord Kim Jong-un, il caro leader. Si è rotto i piedi, dai. Insomma, è un mistero. Bisogna chiedere a Razzi, soprattutto lui. Dopodiché c'è tutta sta misteriosa pappa per capire quali sono gli equilibri e le gerarchie del Movimento 5 Stelle, cioè i grillini che saranno presenti a Roma. Insomma, bisognava pulire, bisognava sistemare. Luigi Di Maio, oltre ad essere un eroe del fact checking, è andato a pulire. Un eroe del mocio e della scopa, è andato a pulire a dispetto di Marino che diceva che fosse pulito, e quindi invece abbiamo beccato lì Luigi De Maio e mi sono permesso di interrogarlo, intervistarlo, ascolta. Ma cosa pensi? Non trovo un mocio. Qual è il tuo impegno? Devo lavare a terra. Ed il tuo tempo? Ma che ci vorrà un'oretta? Che risultati hai? Non trovo un mocio nessuno. Che risultati hai? Non c'è niente. Rido di mente. Se ride. Un sonso che sei. Ora tu fai. Di Maio è coraggioso. È andato a pulire, ha fatto bene, bravissimo. Simonelli, professor Simonelli. Buongiorno. Professor Simonelli, buongiorno, professore di storia della televisione alla Cattolica di Milano. Che voto dà questa settimana televisiva? Ma esiste la cattedra di storia della radio? Settimana deludente. Non credo. Sentiamo una canzoncina, sentiamocela. Vecchia America dei tempi di Rodolfo Valentino, quando al Johnson canticchiava e Frank Sinatra era bambino, quando Gershwin rappresentava. Che cos'è questa cosa? Allora, due delusioni, una vicina e una viene dalla vecchia America. Cominciamo da quella più vicina. Quella più vicina riguarda i talk. I talk sono profondamente in crisi, è crollato Santoro, va Maluccio Giannini, va Maluccio Floris, insomma, sono finiti i talk o non sono finiti? Sono finiti perché non c'è drammaturgia, non c'è l'antagonista, il protagonista e l'antagonista non ci sono più, c'è solo un protagonista. Senza Berlusconi, niente. No, niente talk, basta, allora, basta capirlo e cambiare genere. Se diciamo si è capaci, se si è capaci. Perché è un po' è un problema, come si dice, una causa prossima, poi c'è una causa remota. La causa prossima è il cambiamento del quadro politico. Eravamo abituati a dei conflitti. E quella remota? Quella remota è che il re è nudo. Il re è nudo, ci si è accorti che il talk non serve a nulla, che il talk non fa informazione, non chiarisce i problemi, azzera le opinioni, perché un'opinione contro l'altra vale come l'altra. Tutto vale in un talk, vince chi ha più dialettica, e 20 anni di talk non sono serviti assolutamente a chiarire i problemi del paese. Speriamo che si capisca, professore. L'altra delusione, insomma, questo canone dove sta? Questo canone adesso ve lo dico, dica. Fare un giro, perché la grande delusione di questo weekend è True Detective, la serie americana di HBO, pompatissima, lanciatissima dalla critica. Ma da quale critica, professore? Io ho letto niente. Quale critica? Repubblica, Fatto Quotidiano, tutta la grande stampa, Corriere, anche il Corriere. Il Corriere, coloro che sostengono la superiorità della fiction americana. Questa fiction True Detective, ripeto, andata su Fox, che doveva rappresentare una fiction, come si dice con una frase che mi fa imbestialire, bella come al cinema, e che racconta di questi due detective accigliati. Vabbè, e invece non era bella come al cinema. No, perché non era bella come il cinema, e non era soprattutto bella perché questi detective parlano dei massimi sistemi, di filosofia, di nihilismo, di ottimismo, di fede, mai che si fermino una volta in un'osteria a mangiare il pesce. Vabbè, viaggiano alto, professore, e piacciono a quelli alti, viaggiano alto, è normale. Per fortuna, questa sera c'è Montalbano. Ah, ecco, bene. Lui sì che fa, che racconta delle cose. Vabbè, lì c'è il servizio pubblico da Montalbano, certo, un po' in replica, ma insomma, non so se stasera è una nuova serie. Va bene. In replica si mangia tutti gli altri. Ci va bene così. Grazie, professore. Grazie a voi. Grazie, professore. Il 5 ottobre del 1845 nasceva Ernesto Nathan, considerato il miglior sindaco che Roma abbia mai avuto. Marina Milone ha intervistato Francesco Rutelli su questo piano, e dopo il giornale radio racconteremo la storia di Nathan. Francesco Rutelli, Ernesto Nathan è sempre per lei il miglior sindaco di Roma? Certamente è stato il miglior sindaco della Roma moderna, perché ha segnato una discontinuità rispetto ad un tran-tran governativo. Forse derivava dalla sua cultura internazionale. Ma poi è stato dimenticato, giusto? È stato dimenticato gravissimamente, certamente per la sua fisionomia anticlericale. Ma non dimentichiamo che il clericalismo di quegli anni era veramente una mala pianta. Miglior sindaco di Roma, Mario, che tu sappia? Sì. Nata? Sì, sì, beh, secondo, diciamo, gli storici dicono, che si occupano dicono di questo, sei d'accordo? Sì, uno dei migliori. Cioè non ho gli strumenti per giudicarlo. Senti, c'è ancora una bolla, Mario? Ho due consigli, cioè due libri da leggere se vuoi capire la contemporaneità, che è fatta di queste cose qua. Si susseguono i preparativi per installare nuove basi missilistiche sul suolo dell'isola. Senatore, siamo all'alba di una nuova guerra. Allora, questa era la crisi dei missili a Cuba, no? Due libri, il primo è l'ultimo di Kissinger, molto bello, World Order, è un libro fantastico che spero verrà tradotto presto in Italia. L'altro invece è di Ken Follett ed è diciamo affrontare la storia del Novecento attraverso il romanzo, una fiction che però è contemporaneamente anche fatti, quindi è un bel mix, è I giorni dell'eternità, è tradotto anche in italiano, consiglio vivamente questi due volumi se volete andare oltre, diciamo, quella che giustamente Simone li definiva la chiacchiera. Senti, un'ultimissima battuta, come andrà a finire secondo te domani con i sindacati? Tutta Muina e Renzi va avanti? Secondo me Renzi, essendo abile sul piano dialettico, troverà il modo di convincerli. Che dici tu? Pietrangelo. Lui sarà abile dal punto di vista dialettico, ma le cambierà le cose in corso d'opera, altrimenti crolla tutto. Ah, tu pensi? Sì, perché figurati, ci sarà magari un altro arbitraggio complicato a nascondere poi la realtà delle cose. È sempre come la partita Roma-Juve. Ah, non vorrei aprire questo tema,